Allora, la prossima canzone è una canzone popolare degli anni 70 che noi abbiamo rovinato per voi. Tutto il mondo sta esplodendo, dall'Angola alla Palestina, l'America Latina sta combattendo la lotta armata, vince in Indocina. In tutto il mondo i popoli acquistano coscienza e nelle piazze scendono con la vista violenza. Quindi cosa vuoi di più, compagno, per capire che è tornata l'ora del fucile. L'America di Nixon, dei geni in mezzo mare, dalle bandiere nere una versione para. La civiltà del Napalm al popolino piace, finché ci sono padroni non ci sarà mai pace.